Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e i temi di cui ci occuperemo. Torneremo anche a parlare di economia classica, oggi assegnati infatti i Nobel all'economia e Nobel sostanzialmente Alvin Roth e Lloyd Shapley per le loro teorie sul cosiddetto matching, su come si incontra la domanda e l'offerta. Devo dire che richiama molto la teoria dei giochi e quindi si torna ad assegnare un premio sostanzialmente dedicato a chi studia formule matematiche o comunque elabora elementi matematici. Nel passato abbiamo visto invece premi dati anche a un approccio più interdisciplinare dell'economia, cioè a cavallo tra la psicologia e la sociologia. Penso per esempio a quello della simmetria informativa, di come diverse siano le informazioni che hanno i diversi operatori sul mercato, contrariamente a quanto si è sempre detto che c'è un uomo, un soggetto che vuole comprare, un soggetto che vuole offrire e si incrocia la domanda e offerta. Quel premio Nobel invece stabilì che c'è una diversa accesso alle fonti, come poi abbiamo visto anche nello scoppio della crisi finanziaria. Ancora ci occuperemo della vicenda Finmeccanica, perché nel fine settimana è arrivata anche l'ipotesi di una cordata italiana per Ansaldo STS, per Ansaldo Energia, scusatemi, e quindi parleremo anche di Finmeccanica. Oggi tra l'altro importante incontro per quello che riguarda il numero uno Orsi, e poi della che ha detto tra l'altro che ha intenzione di rimanere e difendersi a tutto tondo, questo nell'ambito dell'inchiesta della procura di Busto Arsizio che riguarda lo stesso numero uno di Finmeccanica. Cancellata invece dal Presidente del Consiglio la riunione di domani con i vertici di Finmeccanica, bisogna discutere appunto degli scenari del mercato europeo della difesa, il ruolo del gruppo italiano dopo che è saltata la fusione per ora EZBAE, e appunto anche la vicenda di Ansaldo Energia. Parleremo anche nella seconda parte del programma della legge di stabilità finanziaria. Appare a mio avviso sempre più chiaro l'incremento di tasse che è presente in quella manovra. Ripeto, il governo può, come già è successo nel passato, fare una manovra correttiva, chiamare la legge di stabilità. Quello che secondo me è sbagliato dire è che in realtà non è una manovra che porta a un aumento di tasse. A quello che non risulta, adesso ne parleremo, tra IVA, IRPEF e accise ci saranno 4 miliardi di tasse in più nel 2013, al netto di tutta l'operazione sull'IVA e l'operazione sull'IRPEF, cioè la diminuzione delle due aliquote più basse. E infine avremo anche ospite quel mitico assessore della Regione Emilia-Romagna, questo per non dimenticare il tema di come viene sprecato il denaro pubblico anche dalle regioni, che ci ha fatto molto scalpore in senso positivo venerdì, perché è la persona che risparmia tutto, non ha costi, non ha diari, non ha note spese, va e svolge la sua missione a costi inferiori probabilmente a quelli di qualunque anche azienda privata che lavori a risparmio. E allora ogni tanto portare un esempio virtuoso mi sembra importante, anche perché come sempre in apertura racconteremo esempi non così virtuosi. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Oro e petrolio stabili, oro a $1,741 in Asia, petrolio a $91,77 al barile. La borsa guadagna 0,5% percentuale a Milano, 1% percentuale a Parigi, lo 0,40 a Francoforte e lo 0,20 a Londra, euro a quota 1,2940. Tra i titoli molto bene media 7+3,45, bene anche Finmeccanica +1,90 come in pregilo, 1,80, Campari 1,80, Azimut +1,70, Terna +1,5 come Ansaldo STS, Autogrill +1,30 come la Popolare di Milano e Generali Assicurazioni, ma anche Mediobanca, il Monte dei Paschi e l'Ottomatica. ST Microelectronics meno 1,60, Pirelli meno 1% come Atlantia, all'1% lo perde anche Saipem, lo 0,80 è il calo di Fiat. SoftBank ha annunciato un accordo da 20 miliardi di dollari per acquistare il controllo di Sprint Nextel. Stiamo parlando del mondo delle telecomunicazioni. Sprint Nextel è il terzo operatore di cellulari, di telefonia mobile negli Stati Uniti. E lo ha reso noto la compagnia giapponese in una nota. Nel frattempo continuano a macinare utili, se non da record, ma altissimi, le banche d'affari americane, le stesse che sono la base dello scoppio finanziario di questa crisi. Ci piace sempre ricordarlo perché noi non dimentichiamo. E dopo aver visto quello che è successo a JP Morgan, trimestrale da record storico, altro che crisi. E oggi anche Citigroup ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto in calo, ma insomma 470 milioni di dollari sopra le stime degli analisti. Nel frattempo però, visto che si sta allargando lo scandalo Libor, ricordate quello che ha travolto Barclays, Royal Bank of Scotland sarebbe pronta a sospendere anche Jezri Mohideen, capo di tutta la sala trading sui tassi di interesse. Andiamo alla Grecia, dove, come avete letto forse sui giornali, sta passando, lo anticipavamo la scorsa settimana, un'idea più morbida, al di là di fare la faccia feroce. Come dicono a Napoli, attenzione, insomma, la linea si è ammorbidita, anche e soprattutto quella tedesca. Ormai l'idea di dare 2 anni in più alla Grecia è un'idea che prende piede. C'è allo studio un piano di riacquisto del debito pubblico che potrebbe essere finanziato dal fondo ISM o dai proventi delle privatizzazioni, cioè i greci dovrebbero riacquistarsi il debito pubblico. E Angela Merkel oggi ha detto: vogliamo che la Grecia resti nell'euro, il lavoro non è stato completato, c'è ancora molto da fare nei prossimi giorni e settimane. Però ci sono notizie che noi raccontiamo tutti i giorni che danno l'idea della crisi molto di più di tante analisi. Mi riferisco all'associazione Save the Children, che ha lanciato una campagna per i bambini britannici in povertà. Mi riferisco alla Croce Rossa Internazionale, che 2 settimane fa in Spagna, la Croce Rossa per la prima volta ha lanciato un piano per i bambini spagnoli, non per i figli degli immigrati. E mi riferisco al fatto non solo che la Svizzera abbia compiuto esercitazioni di frontiera con le sue truppe di leva nel caso di ipotizzato di un ammasso di immigrati dalla Spagna, dall'Italia, da tutti i paesi in difficoltà, volessero andare in Svizzera, ma il fatto che gli spagnoli che se ne sono andati dalla Spagna dal 1 gennaio del 2011 sono oltre 1 milione, cioè stanno ripartendo in Spagna perlomeno, ma non solo, flussi migratori che non si vedevano da anni. Pensate che solo nei primi 9 mesi di quest'anno hanno già lasciato la Spagna 500.000 di persone. Mario Monti oggi intervenuto in web streaming al seminario del Parlamento Europeo per celebrare il 20° anniversario della prima direttiva sul mercato unico ha detto: attenzione, il mercato unico rischia la disintegrazione, la crisi ha creato frammentazione nel mercato unico, c'è un ritorno di riflessi protezionistici verso lavoratori che vengono da altri stati membri o anche verso merci importate da altri paesi. E sulle banche ha detto: dobbiamo andare avanti con una maggiore integrazione dei mercati finanziari e avere una supervisione unica bancaria a livello europeo. Vedo molti messaggi sulla legge di stabilità, ne parleremo nella seconda ora del programma. Vi dico solo che oggi il ministro Passera ha detto che si tornerà alla crescita, nel 2013 saremo fuori dalla recessione, la crescita sarà zero, ma comunque sarà un cambio di direzione. sulla legge di stabilità, insomma, il calcolo è chiaro. Sono 9 miliardi di euro di minori entrate per lo Stato, compensate da 6 miliardi di prelievo aggiuntivo. Ma se si guardano gli effetti concreti della manovra su imprese e famiglie, l'aggravio di tasse nel 2013, considerato l'aumento dell'IVA, arriva a 4 miliardi di euro. Questo lo si capisce dalla relazione tecnica, che stima che la Tobin Tax europea porterà 1 miliardo e 100 milioni di euro, ma abbasserà anche di molto le compravendite di azioni e dell'80% quelle relative ai derivati. Ancora, infatti la legge di stabilità dice che il calo dell'IRPEF vale 4 miliardi, e però l'Italia gli sconti del fisco valgono 1 miliardo e 500 milioni. Comunque, tra l'altro si valuta uno slittamento del taglio degli sconti a 2013 e anche una modifica alla retroattività e a quello che riguarda i permessi per chi ha un parente disabile. Parleremo anche di CNH e di Fiat, però dobbiamo raccontare, prima di parlare di cose serie, serissime, perché vedo che ci ha raggiunto in studio Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Con te cerchiamo di essere seri, di capire in base a che cosa hanno vinto il premio Nobel, cioè dove va l'Accademia quando studia l'economia. I due premi Nobel, Alvin Roth della Harvard University e Lloyd Shapley dell'Università della California, cioè se c'è un orientamento più legato alla matematica, dico in maniera molto molto semplice, o più legato alle discipline sociali. L'economia è sempre stata un po' a cavallo, no? Tra un approccio di algoritmico o un approccio invece più sociologico e psicologico. Prima di questo mi tocco dalle stelle, non dico alle stalle, però essere molto molto più prosaico e tornare alla rubrica su come vengono sprecati, mentre il governo vara un'altra manovra di tasse, non solo, ma insomma, anche fiscale, come vengono sprecati i nostri soldi. Abbassare, puttereghe più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Anche oggi, dacci oggi la nostra cronaca quotidiana degli sprechi. Devo ripartire dalla Sicilia, che era un po' che non veniva agli altari. Allora, assediata dalla piazza la giunta regionale siciliana, oltre 5.000 tra forestali e docenti della formazione che tiravano le uova. Tra l'altro devo dire che il tema dei forestali, dei docenti della formazione è uno dei temi di maggiore inefficienza in Sicilia, anche in Calabria, per cui va bene la piazza, ma non è che si può sempre difendere la piazza quando c'è un numero di forestali e di docenti sulla è una macchina costosissima. Però, mentre protestavano, Roma ha sbloccato, cioè il governo ha sbloccato il tesoretto da 420 milioni, che consentirà alla Sicilia di sforare il patto di stabilità. Io non capisco questa cosa, però vabbè. Erano i fondi da usare, pensate, per lo sviluppo, cioè per sviluppare l'economia del sud. Verranno utilizzati nella stragrande maggioranza dei casi per pagare gli straordinari dei regionali, 25 milioni, e poi, perché tra l'altro arriveranno somme comprese tra 150 e 600 euro, subito dopo le elezioni di novembre, ma per pagare anche e soprattutto i vari dipendenti che manifestavano oggi, gli 5.000 tra forestali e docenti alla formazione. Pensate che su questi 420 milioni, solo 45 milioni andranno alle imprese veramente. C'è infatti l'emergenza rappresentata dalla GESIP, società in cui lì interviene più che altro il comune di Palermo. È un carrozzone con 1800 dipendenti, una società comunale, che sono pronti a mettere sotto sopra il capoluogo dell'isola se rimarranno senza lavoro e senza stipendio. Però attenzione, fra meno di 2 settimane in Sicilia si vota e forse spunterà una soluzione anche per quello. E poi c'è un altro giallo, qui mi serve un tango della Maiella, però, per favore. gente che c'è chi dice siete monotoni ultimamente. Sì, è colpa nostra, non è colpa delle regioni che sprecano i soldi. Siamo noi monotoni, vabbè. Il giallo riguarda i trattoristi. Chi sono i trattoristi? Fabrizio Galimberti, lo sai chi sono i trattoristi? Ma suppongo quelli che guidano i trattori. Sì, quelli che guidano i trattori ma non ce l'hanno, perché sono dipendenti dell'ente di sviluppo agricolo della regione. Sono 550, possono guidare il trattore ma non ce l'hanno. I privati infatti non li considerano competitivi, non li vogliono, e quindi bisogna trovare comunque una soluzione anche per i trattoristi. Però attenzione, perché ci sono appunto 180 milioni di euro di finanziamenti al settore agricoltura, 8.000 formatori, cioè la regione Sicilia ha 8.000 persone che svolgono l'attività di formatori, io non so, 8.000. Vabbè. E poi appunto fa sì che di questi 420 milioni dedicati all'economia siciliana resteranno per l'economia siciliana 380 milioni. E se apprendiamo con entusiasmo che il governo abbia fatto cancellare il party per la Calabria alla NIAF, che è l'associazione degli italoamericani, perché è una regione in cui il capoluogo è stato commissariato per infiltrazioni mafiose, forse no. In Puglia è giallo sul verde pubblico. A Foggia nessuno capisce che fine ha fatto il bando per gestire il verde pubblico. Le aree verdi sono in perenne condizioni di degrado, sporcizia e abbandono. La gara che si dovrà aprire è una gara europea, però intanto l'assessorato ha già affidato a una società che si chiama Cartografia, senza alcuna gara, 5.000 euro di appalto per monitorare e localizzare il verde pubblico. Cioè deve scoprire quante sono le piante, quante le aree verdi, in che stato sono i loro giardini pubblici. Dopo un anno ancora nessuna notizia. Ora non si capisce perché bisogna fare un altro bando per il censimento del verde, era già stato oggetto di un censimento, è veramente incredibile. Nel frattempo l'assessorato all'ambiente di Foggia ha speso qualcosa come 66.000 euro per sfalciare l'erba, tagliare le piante, rimuovere i rifiuti con affidamenti diretti, senza gara o con il sistema del cottimo fiduciario. Nulla è cambiato, ma intanto 66.000 euro li ha spesi il comune di Foggia. Complimenti anche a loro. E adesso però invece parliamo dei Nobel. Eleviamoci, visto che qualcuno dice siete monotoni, parlate solo di questi sprechi. Lo so. Magari un po' di coda di paglia, non lo so. Però andiamo, eleviamoci, andiamo sulle stelle, cerchiamo di capire perché i Nobel sono andati a due sostanzialmente americani che hanno studiato la teoria della stabile allocazione e configurazione dei mercati, ossia come si incontrano la domanda e l'offerta. 349-238-6666 per i vostri sms. Intanto uno dei due premiati, allora, Lloyd Shapley ha 89 anni, è un matematico ed economista americano e ha lavorato soprattutto nella teoria dei giochi. Non possiamo spiegare qual è la teoria dei giochi, possiamo dire che è un incrocio, una specie di tris, se qualcuno ricorda il tris. C'è una situazione che uno vince, l'altro perde, che uno l'altro perde, quell'altro vince, oppure tutti e due vincono o tutti e due perdono, dipende. Il caso clamoroso fu quello del balance of terror, del terrore nucleare, l'ipotesi nucleare, la teoria dei giochi diceva avrebbero perso tutti e due, Russia e Stati Uniti, Unione Sovietica e Stati Uniti si sarebbero distrutte a vicenda, e quindi l'ipotesi win-win era che nessuno facesse niente. E Alvin Roth invece ha dato un contributo notevole alla teoria dei giochi, anche lui laureato alla Columbia University. Sentiamolo raggiunto questa mattina dire, insomma, stavo dormendo, come spesso capita, almeno bene, anche loro dormono, quando mi hanno dato la notizia. Il premio accende i riflettori su un campo di ricerca che noi abbiamo portato avanti, e questa è una cosa positiva. Il mio collega ed io lavoriamo su un'area chiamata configurazione dei mercati, una materia piuttosto nuova in ambito economico, e sono sicuro che questa mattina a lezione i miei studenti saranno più attenti del solito. Penso che non si possa essere un economista se non si presta attenzione a tutte le cose interessanti che non capiamo e che riguardano l'economia. Questo è un premio al lavoro riguardante il matching, la teoria delle allocazioni. Alcune delle cose più importanti che facciamo nella vita, dall'andare all'università allo sposarsi, fino a trovare un lavoro, funzionano con il matching. Penso che sia una cosa molto interessante ed è un privilegio aver potuto studiare questo meccanismo. Ho ricevuto la notizia questa notte. In realtà stavo dormendo. È suonato il telefono nell'ufficio di mia moglie, che non ha fatto in tempo a rispondere. Così hanno richiamato. Non mi aspettavo di ricevere il premio, sapevo che oggi sarebbe stato assegnato. Non ho ancora pensato a come usare parte del premio. Ora vorrei un caffè. Vabbè, speriamo che l'abbia bevuto, mentre devo leggere una battuta perché ogni tanto gli ascoltatori sono molto spiritosi. È riferita all'allarme meteo a Roma e al nostro appuntamento, Fabrizio, con gli scandali di come viene sprecato il denaro pubblico. Vista l'allerta meteo della Protezione Civile per le piogge attese su Roma, meno male che Fiorito, Batman, è in carcere, altrimenti a sto giro si comprava la barca. Questo che giustificò il SUV per l'allerta, la Jeep per l'allerta neve. Vabbè, dai, torniamo seri. Allora, teoria dei giochi in primo luogo, che teoria dei giochi l'ho spiegata malissimo, ma quello è. Per quale aspetto della teoria dei giochi Lloyd Shapley e Alvin Roth hanno vinto il premio Nobel? Beh, diciamo, come ha detto Roth in quella breve intervista, si tratta essenzialmente del matching, cioè dell'appaiamento, perché il mercato serve molto bene a allocare le risorse verso gli usi più produttivi, però il mercato ha anche molti buchi neri, molti fallimenti. Ci sono dei casi in cui il meccanismo del mercato, che è quello basato sui prezzi, non può essere usato. Prendiamo per esempio l'appaiamento di un paziente che aspetta un fegato nuovo con gli organi disponibili per l'espianto e il trapianto. Come appaiare il paziente all'organo? Evidentemente non si può usare il meccanismo del prezzo, non è pensabile che il fegato migliore se lo prende chi paga di più. Ci vogliono degli altri tipi di meccanismi. E, per esempio, anche almeno in America, gli studenti anche alle scuole pubbliche possono scegliere a quale scuola pubblica andare, quindi fanno domanda. Allora bisogna anche qui appaiare lo studente con la scuola. E per questi meccanismi che ovviano, che cercano di compensare i fallimenti del mercato, ecco, sono stati studiati prima da questo esperto di economia matematica, Shipley, che ha usato la teoria dei giochi, che è una branca astrusa dell'economia e della matematica, creata da quel genio che fu John von Neumann. Ebbene, con questi algoritmi che lui ha elaborato, era possibile fare dei matching efficienti, dove efficiente vuol dire che alla fine le due coppie del paio erano in una situazione che non avrebbe potuto essere migliorata, cioè nessun altro avrebbe potuto dire no, tu dovresti invece essere appaiato in quell'altra maniera. E tutto questo è andato dormendo negli articoli dell'Accademia per decenni, fino a che Roth, l'altro premiato, non lo ha riscoperto e ha usato questi algoritmi per risolvere dei problemi concreti, come appena detto quello del matching fra i pazienti e gli organi, o del matching nelle scuole, o del matching anche per esempio coloro che finiscono la scuola di medicina e devono fare un periodo di internato negli ospedali. Anche lì c'è un problema di matching, perché loro esprimono preferenze per gli ospedali possono rispondere, e è stato usato quindi questo algoritmo di Gail Shipley per trovare la maniera più efficiente per risolvere questi problemi concreti. Allora, spero di non essere troppo prosaico e inesatto, ma insomma, qui, rispetto alla teoria classica dell'economia, che c'è una domanda e un'offerta, si incrociano, e la vera variabile è il prezzo, per cui se tu hai tanta offerta e poca domanda, il prezzo tenderà a scendere finché non si incrocia; se tu invece hai tanta domanda e poca offerta, il prezzo tenderà a salire. Questo incrocio viene studiato non usando il prezzo come unica variabile, perché ci sono tantissimi settori. Tu citavi il caso più classico, in cui l'agire sociale non può permettersi di dire beh, il fegato migliore se lo compra chi ha più soldi. Certo. Mi ricordo, vabbè, non voglio essere biografico, ma insomma, noi siamo abituati che se sei su un treno e passa un carrello di acqua, tu dici mi dia 18 bottigliette d'acqua, le prendo quante io, poi gli altri restano senza. Allora è chiaro che una teoria che non si basi solo sul prezzo, cioè chi offre subito compra, deve andare a vedere anche altre variabili con cui la domanda si incrocia nel miglior modo possibile con l'offerta. Non siete mai contenti, c'è chi dice parlate troppo degli sprechi della politica, adesso chi dice ma insomma oggi la puntata è troppo intellettuale, mamma mia. Andiamo avanti, Fabrizio Galimberti, ti remi innanzi. Allora, l'approccio che a me interessa, perché ripeto, poi anche attraverso l'assegnazione dei Nobel dell'economia si capisce dove va la scienza economica e si capisce la legittimazione culturale di quanto è avvenuto, a mio avviso è stata fortissima negli anni precedenti, quanto poi le banche d'affari come apprendisti stregoni hanno messo in pratica, creando la bolla di carta, l'assunzione di rischi impropri, convinti, visto che lo dicevano gli scienziati d'economia, che l'algoritmo spiegasse tutto. Allora, adesso siamo tornati verso un approccio più matematico, algoritmico, teoria dei giochi, e lasciando da parte un approccio più psicologico, sociologico, penso sempre alla teoria che fece vincere il Nobel a Kahneman, penso, sulle asimmetrie esatto. informative, in cui si disse guardate che è inutile continuare a dire che tutti gli operatori hanno le stesse informazioni, domanda e offerta, ci sono, chi sta in certe posizioni ha informazioni molto più sensibili rispetto al consumatore, al risparmiatore finale, che è privo di quelle informazioni. Comunque, quale corrente, diciamo così, si sta imponendo adesso? Ma francamente io mi aspettavo che il Nobel andasse a Robert Shiller. Anch'io, che è proprio uno di quelli che avevano previsto la grande crisi, sì. che avevano tuonato contro gli eccessi della finanza e che avevano sottolineato un approccio più comportamentale di studio della psicologia dell'investitore e della irrazionalità, fra virgolette, di tanti atteggiamenti degli investitori stessi. Ebbene, questo non è successo, ma non credo che voglia dire che si è andati verso la sponda opposta, perché dopo tutto è vero che questi algoritmi che sono stati premiati adesso sono algoritmi complessi che appartengono più all'economia matematica che all'economia comportamentale, però è anche vero che non ci sono appigli con la finanza in questo tipo di analisi, c'è più una preoccupazione di risolvere dei problemi concreti e di rendere più efficiente il modo in cui distribuire le risorse fra tanti usi alternativi. Forse l'anno prossimo, ecco, io spero che si ritornerà su qualche cosa di più attinente anche alla economia di oggi e alla crisi che ci ha attanagliato e che, come dicevi tu, ha la sua origine in una ingenua fiducia nei meccanismi autoregolatori di un'economia che si è andata facendo sempre più difficile da gestire. Sì, ossia la teoria era, ma tanto i rischi verranno in qualche modo calmierati, verranno riequilibrati, nessuno è così, l'uomo è razionale, non si prenderà mai troppi rischi, invece sappiamo che l'uomo è irrazionale. Oggi inizia il processo a Schettino, voglio dire, se mi fate fare un volo un po' pindarico, no, ma lo sappiamo tutti che in realtà la componente emotiva, psicologica, sociologica vale tanto quanto quella razionale. Hai fatto bene a ricordare Shiller, che ritiene, per esempio, con un approccio psicologico che si dovrebbe assicurare tutto nella vita, assicurare proprio con un'assicurazione, assicurare il percorso di vita, renderebbe più liberi di fare scelte, prendere rischi, aumenterebbe produttività e efficienza nel mercato. Forse avere dato il Nobel a Krugman era già sembrato tanto all'Accademia, e quindi hanno voluto un po' tornare su un approccio così, meno, passami il termine, giornalistico, divulgativo e più accademico, stretto, non lo so, è una mia ipotesi maliziosa. Grazie a Fabrizio Galimberti. Il traffico, poi la borsa, Finmeccanica e la manovra finanziaria. E se ce la facciamo almeno oggi, l'assessore modello, quello che non costa niente, paga tutto di tasca sua, a rimborsi minimi. 349-238-6666. Di nuovo in diretta c'è chi dice: quale algoritmo usa la regione Sicilia? Non male anche questa. E chi dice: da noi la teoria del matching, quella che ci ha appena spiegato Fabrizio Galimberti e che ha portato oggi all'assegnazione dei due premi Nobel, Lloyd Shapley e Alvin Roth, non sarebbe possibile, perché da noi il matching si fa non con gli algoritmi ma con la raccomandazione. Non buttiamoci giù, non è vero, ci sono anche decine di migliaia di casi e centinaia di migliaia di casi in questo paese di ragazzi o adulti che vanno avanti per le loro capacità e non solo per la raccomandazione. Noi raccontiamo gli esempi negativi, ma c'è una foresta silenziosa che va avanti in questo paese. La borsa. Più 0,50% Milano, Parigi più 0,90%, Francoforte più 0,40%, l'America più 0,46%, Londra più 0,30%. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Mediaset più 3,40%, Al Jazeera e Finmeccanica, la salterei perché ne parliamo tra qualche minuto. In pregilo più 1,90%, Monte dei Paschi più 1,80%, Azimut più 1,60%. Per cento e ancora Terna più 1,40%. Partiamo da Mediaset. Eh sì, Mediaset corre, il miglior titolo di Piazza Affari, più 3,3%, piace insomma agli operatori l'ipotesi di una joint venture nel settore delle pay TV, che per Mediaset vuol dire premium, con Al Jazeera, un'ipotesi di stampa rilanciata nel weekend dal Sole 24 Ore, che comunque insomma sarebbe positiva per il titolo di Cologno Monzese, visto che la stessa questa pay TV nel 2011 ha registrato perdite operative per quasi 70 milioni, insomma un business da rilanciare per cui c'è bisogno di liquidità e proprio questo che serve un socio, sì. Un socio estero. Fronte opposto invece, Steam Microelectronics perde l'1,6%, ma molto era salita venerdì, Pirelli meno 1, qualche realizzo, Atlantia meno 1%, Fiat meno 1%. Fiat Industrial non ha risentito dell'integrazione di CNH? Eh? Diciamo che ne ha risentito di più questa mattina, poi alla fine quando è arrivata a perdere più di un punto percentuale, e poi ha chiuso appunto a meno 0,3%. Qui il tema è chiaro, fondamentalmente i consiglieri indipendenti di CNH, che hanno un parere vincolante sui termini dell'integrazione tra la stessa CNH e Fiat Industrial, hanno sostanzialmente detto che il concambio tra le due società non è equo, quindi questo lascia presumere che se davvero il gruppo Dell'Ingotto vorrà proseguire su questa strada, su quella dell'integrazione, dovrà migliorare il concambio a svantaggio di CNH e di Fiat Industrial. Da qui quindi uno doveva desumere che il titolo in borsa sarebbe dovuto essere stato penalizzato. Il peggior titolo oggi è Marcolin, qui c'è un'OPA, un'offerta pubblica solo che del fondo PAI, solo che è stata più bassa di quanto non ci si attendesse, no? Perde il 12% il titolo. Si lancia un'OPA, poi si prende come punto di riferimento il prezzo medio degli ultimi 12 mesi, ponderato per i volumi. Qui in realtà il mercato, forse la speculazione è corsa più di quella che era l'operazione vera e propria, che poi ha preso corpo, e così sullo slancio il titolo è andato al di là di quella che poi è stata l'offerta vera e propria del fondo PAI. Ancora in pregilo, torniamo ai titoli a maggiore capitalizzazione. Bene oggi, secondo miglior titolo dopo Mediaset, più 1,90%. Lì abbiamo l'ipotesi di cessione di Cordovias, no? C'è un consiglio di amministrazione del General Contractor, passato sotto il controllo di Salini, ma su cui comunque i Gavio continuano ad esercitare un peso molto forte nella governance, e domani dovrà decidere sull'eventuale cessione del 19% delle autostrade sudamericane, un asset importante che potrebbe generare una liquidità altrettanto importante che potrebbe essere dedicata a un maxi dividendo. In ogni caso quella di domani sarà forse la prima scelta del nuovo corso di Impregilo, e il mercato, come spesso accade in questi casi, si surriscalda. Dicevamo bene anche altri titoli: Autogrill più ne 30, Ansaldo CTS più ne 30, Generali più ne 30, Popolare di Milano anch'essa come Mediobanca, Eni più ne 20, Exor più 1,1, Buzzi Unicem anch'essa più ne 1 come Luxottica e Lottomatica. Grazie a Ciao Condina. Noi restiamo invece in tema di Finmeccanica, che oggi ha guadagnato l'1,5%, ma c'è da un lato Maretta su Ansaldo Energia e dall'altro anche novità nel rapporto col governo. Cancellata infatti dal Presidente del Consiglio Mario Monti la riunione di domani con i vertici di Finmeccanica, mentre l'avvocato di Giuseppe Orsi, presidente amministratore legato di Finmeccanica, dice che Orsi ha intenzione di rimanere e difendersi a tutto tondo. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Non stai ballando, vero? Gianni? Sì, ti sento. Eccoci. Senti. Allora, ma che succede a Finmeccanica? Mario Monti cancella l'incontro di domani con Orsi. Vabbè, l'avvocato dice che Orsi si difenderà tutto tondo, ma mi sembra che le novità più grosse siano arrivate nel fine settimana sulla vicenda Ansaldo Energia, perché il ministro Passera ha fatto sapere, insomma, che c'è anche un'accordata italiana. L'accordata italiana, che era stata preannunciata con una lettera dal fondo strategico, cioè dalla Cassa Depositi e Prestiti, che poi è controllata dal Ministero dell'Economia, si è appalesata con i nomi venerdì sera, un comunicato, e quindi l'accordata italiana esiste, non è più solo un annuncio. E oggi sai che sul Financial Times la Siemens, che è il grande offerente nei confronti di Ansaldo Energia, ha detto, secondo quanto riferisce il Financial Times, che sarebbe pronta a rinunciare. Il Financial Times ha riportato, allora arriva l'accordata italiana e forse sparisce l'offerta tedesca. Per il momento credo che sia un preannuncio, evidentemente, però è il segno che il gruppo tedesco, che stava lavorando da solo anche con un'offerta importante, si è parlato di 1,3 miliardi, non era ancora un'offerta vincolante, comunque c'era un lavoro, diciamo, vero, ha la sensazione evidentemente che ci sia anche un favore politico e generale, ed è così, per una soluzione italiana, visto che poi è pilotata da una società pubblica, il fondo strategico, questa accordata, e quindi dice che Siemens in ogni caso non avrebbe intenzione di rilanciare le offerte, comunque per quello che se ne sa sarebbero diverse, quella italiana non comprerebbe tutta la parte, tutta l'Ansaldo Energia, ma una quota fino al 30%, quindi minoritaria. Finmeccanica oggi è al 55% e il resto ce l'ha un fondo di investimento americano. Poi comunque c'è la vicenda anche dei rapporti col governo, la posizione di Orsi in bilico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento con Gianni Dragoni sulla vicenda Finmeccanica, al di là appunto del fatto che sul Financial Times oggi ci sia scritto che Siemens, che aveva fatto l'offerta unica per Ansaldo Energia, ci starebbe ripensando quando ha visto che c'è un'accordata italiana con dentro lo Stato, diciamola così. C'è anche l'annullamento dell'incontro previsto per domani tra i vertici di Finmeccanica, quindi Orsi in primo luogo, è il premier Mario Monti. Gianni, come dobbiamo leggere questa vicenda? Cioè, da un lato il governo interviene in qualche modo scompaginando anche i piani di Orsi, perché lui era convinto forse che a questo punto Ansaldo Energia sarebbe andata a Siemens, e dall'altro però gli annulla un incontro. Una coincidenza? Ma l'incontro era nato, secondo me era un po' un pretesto, era nato per parlare delle conseguenze della fusione BAE e ADS, che avrebbe creato il più grande gruppo mondiale dell'aerospazio e difesa, l'impatto su Finmeccanica. Questa operazione è saltata la settimana scorsa. Certo. Però l'incontro non è stato cancellato il giorno dopo che è saltato, che sarebbe stato il 10 o 11 ottobre, ma è stato cancellato ieri. Perché? Cosa è successo nel frattempo? tutte le diciamo le indiscrezioni, le notizie comunque delle indagini giudiziarie intorno a Orsi per la vicenda presunta di Tangenti per la vendita di elicotteri in India, e stanno continuando, si intensificano, sono uscite ancora più nel fine settimana. Io penso che il motivo, poi oggi Orsi ha fatto parlare l'avvocato, non ha parlato lui, poteva, vero. Forse, secondo me anche il fatto di far parlare l'avvocato vuol dire che la situazione è delicata, dice che si difende e che non si intende dimettersi a meno che non glielo chieda esplicitamente il governo. L'incontro di domani per parlare ufficialmente di una cosa che non c'è più, ma in una situazione così difficile, avrebbe visto un imbarazzo del governo nel dover ascoltare un manager che in questo momento sembra un po', diciamo, che stia quasi un po', insomma, giocando quasi dietro le quinte la sua partita, e quindi il governo avrebbe dovuto, nel caso dell'incontro, decidere se confermargli la fiducia oppure ritirarla. La partita invece c'è un braccio di ferro in corso, io credo che e lui si è tolto da ogni imbarazzo. Grazie a Gianni Dragoni, perché il gruppo Finmeccanica è un gruppo veramente che sta conoscendo, sia per via della magistratura che anche per quella mossa per ora saltata della fusione tra EZ e BAE, un periodo di grandi cambiamenti. Devo dare un chiarimento: prima citavo a proposito delle raccomandazioni, che non è vero che in questo paese funzioni solo raccomandazioni, noi ci occupiamo dei casi peggiori, ma mica ci sono solo i Fiorito. Ho fatto l'esempio della foresta silenziosa, la frase completa è: nella foresta silenziosa un albero che cade fa molto più rumore di 1000 alberi che crescono. Chiuso questo inciso, qui invece nella foresta silenziosa assistiamo forse a una potatura, se per foresta silenziosa intendiamo i contribuenti italiani, e per potatura quello che ha deciso il documento di stabilità finanziaria, quello che ho chiamato, per farsi capire, la mini manovra, la manovra correttiva, minimica tanto perché vale 11,6 miliardi, manovra correttiva, e in cui non si capisce più niente, nel senso che il Sole 24 Ore è uscito con dei dati lunedì, ne abbiamo parlato lunedì scorso, in cui era palese come lo scambio tra abbassamento dell'IRPEF per le due aliquote più basse e aumento dell'IVA di un punto percentuale più la retroattività andasse a svantaggio del contribuente. Oggi invece il governo fa sapere con le note tecniche che in realtà il governo ci perderà, quindi dovrebbero arrivare risorse. Io non ci sto capendo più niente, nel senso che non capisco se alla fine il saldo sarà negativo oppure positivo, e quindi avrò bisogno di un certo aiuto. L'aiuto me lo dà, come spesso capita in questi casi, Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Ammetto la mia incapacità, non è un problema, ma insomma, perché leggendo la nota tecnica, la legge di stabilità, lo Stato dice ci sono quasi 9 miliardi di euro di minori entrate, compensate solo in parte da 6 miliardi di prelievo aggiuntivo. Io così capisco che lo Stato ha regalato, tra virgolette, 3 miliardi con questa mini manovra, anzi con questa manovra. Se si guarda gli effetti concreti della manovra su imprese e famiglie, l'aggravio delle tasse nel 2013 dovrebbe essere, considerato l'aumento dell'IVA, di 4 miliardi. Allora, io non sto capendo, a parte il fatto che il governo prevede che con la Tobin Tax europea entrerà 1,1 miliardi, ma poi chiarisce che potranno calare del 30%, perché una tassa sulle transazioni finanziarie, le compravendite di azioni, dell'80% quelle relative ai derivati. Ma lasciamo stare questo. Ci guadagniamo o ci perdiamo? Allora, mettiamoci nell'ottica del contribuente, che è quella più interessante. Il contribuente tendenzialmente ci perderà. Perché? Anche nelle interviste di questa mattina il ministro dell'economia Draghi dice, giustamente dal suo punto di vista, il taglio delle prime due aliquote IRPEF vale 6 miliardi e qualcosa, quindi vi diamo diamo ai contribuenti 6 miliardi. Grilli, dicevi tu, non Draghi. Grilli, certo, chiedo scusa. Prego, prego. Grilli dice, diamo 6 miliardi e qualcosa ai contribuenti con il taglio delle prime due aliquote dell'IRPEF, ne riprendiamo meno di 2 miliardi con le nuove regole su detrazioni e deduzioni, rimangono 4 miliardi circa. Benissimo, ma questi 4 miliardi serviranno ai contribuenti per pagare la maggiore IVA, che già nel 2013 vale 3 miliardi e 2, ma dura 6 mesi, perché va in vigore dal 1 luglio del 2013. Quindi noi, facendo un calcolo a regime, cioè in un anno pieno, abbiamo 4 miliardi di IRPEF in più, cioè abbiamo paghiamo 4 miliardi di IRPEF in meno, ma paghiamo 6,2 miliardi di IVA in più. Quindi, voglio dire, detta male, al contribuente arrivano un po' più soldi perché paga meno IRPEF, però questi soldi servono a pagare l'IVA aumentata. Questo al contribuente medio. Poi, se andiamo ad articolare, anche perché discorso, c'è la benzina su questo, c'è la benzina, e poi ci sono anche gli effetti indiretti che l'aumento dell'IVA può avere sulla cosiddetta spirale inflattiva, nel senso che questi calcoli vengono fatti dicendo, va bene, l'IVA aumenta di un punto, e quindi noi nessuno farà il furbo, diciamo. E quindi, esatto, e quindi noi sui prezzi, diciamo, spalmiamo un aumento esattamente uguale da un punto di vista percentuale. In realtà non è così, perché chiaramente, punto uno, in una fase, diciamo, già depressiva di suo, per i consumi non è certo una bella cosa. Punto secondo, l'aumento dell'IVA può scatenare, come dire, arrotondamenti, aggiustamenti. Poi l'IVA interviene, diciamo, in più fasi, no, del percorso. Citavo la benzina perché sappiamo, appunto, che è la prima. Il costo dell'autotrazione incide sul bene trasportato. Esattamente. Chiaro, non sarà una cosa enorme, ma insomma sono tutti elementi di aumento dei prezzi aggiuntivi. Vorrei chiederti però un'ultima cosa, perché abbiamo visto che siccome sia il PD che il PDL sono molto contrari alla retroattività che spiegavamo con Salvatore Padura, da alcuni chiamata attiva da retro, ma molti ascoltatori fecero questa battuta, di tutto un insieme di agevolazioni e sgravi. E anche la norma che riguardava invece la limitazione di chi può prendere un permesso per parenti disabili, andava a restringerla a parenti molto stretti. Su questo potrebbe arrivare un ripensamento, anche perché la retroattività va a violare in maniera palese lo statuto del contribuente. Esatto, sì, questa è la parte, diciamo, più criticata della manovra, perché gli sconti IRPEF di cui parlavo prima partono nel 2013 e quindi si sentono, diciamo, in relazione ai redditi 2013, quindi dichiarazioni 2014, le nuove regole su detrazioni e deduzioni partirebbero invece già dai redditi 2012, quindi redditi che per 8 decimi abbiamo già guadagnato. Questa è stata da subito l'aspetto più criticato. Ricordiamoci, noi stiamo parlando di un disegno di legge che deve essere votato dal Parlamento. Certo. Siccome PD, PDL e UDC hanno detto che alla retroattività sono contrari, al momento, diciamo così, non ci sarebbe pressoché nessuno, visto che la Lega è sicuramente contraria all'IDV pure, ma è fuori dal governo. E appunto, è fuori dalla maggioranza, non ci sarebbe al momento praticamente nessuno in Parlamento disposto, almeno a parole, a votare questa retroattività, e già si sentono i primi ripensamenti. Su invece la norma che dimezza lo stipendio degli statali che utilizzano i permessi, esatto. Al momento, diciamo, siamo ancora più lontani da un ripensamento. Certamente è una norma particolarmente antipatica che susciterà molte polemiche. Ricordiamoci che, ripeto, questa manovra deve essere votata da un Parlamento, e cioè da delle forze politiche che fra pochi mesi vanno alle elezioni. Sono già in campagna elettorale, come stiamo vedendo. Grazie a Gianni Trovati per la chiarezza che ti è propria, e visto che molti di voi mi stanno scrivendo sulla foresta silenziosa, perché non portate mai esempi positivi, perché da un lato la regola del giornalismo è che fa notizia l'uomo che morde il cane, non il cane che morde l'uomo, dall'altro obiettivamente siamo travolti da situazioni critiche, però è un invito che raccogliamo. Cercheremo anche di fare delle puntate con le aziende che riescono aumentare fatturati ad assumere. Dopo il traffico vorrei portare un esempio virtuoso, in questo caso di un amministratore comunale, dove obiettivamente è tutto, fa l'assessore, e riesce a stare in, a spendere molto, ma molto meno del budget che gli viene assegnato, a dimostrazione che si può fare. Ultima parte di Focus Economia, chiudiamo in bellezza, nel senso che anche per, come dicevo, accogliere l'invito che ogni tanto ci arriva, non ci sono solo gli scandali delle varie regioni italiane, ormai mancano pochissime all'appello, o anche di alcuni comuni. Abbiamo raccontato in apertura con quella che sta purtroppo diventando una rubrica fissa, la regione Sicilia da un lato e la regione Puglia dall'altro. Ci sono anche assessori e di città grandi, abbiamo avuto anche esperienze e testimonianze di assessori di piccoli paesi, ma di città grandi che riescono a spendere molto molto meno del loro budget. Devo dire che la battuta più bella della giornata è quella dell'ascoltatore che ha scritto un'ora fa dicendo adesso che c'è l'allarme acqua a Roma, meno male che Fiorito è in carcere, sennò avrebbe giustificato per questo motivo l'acquisto di una barca, ricordando l'acquisto del SUV giustificato per l'allarme neve a Roma. Flaiano scrisse anni fa un marziano a Roma, qui potremmo dire un marziano a Bologna. Matteo Lepore, buonasera. Buonasera. Lei, alzi leggermente la voce, lei è assessore al marketing e alle relazioni internazionali del Comune di Bologna. Abbiamo visto l'Emilia Romagna come regione spendere tantissimo e altre regioni per le relazioni internazionali. Lei ha un budget di 20.000 euro per fare missioni all'estero. Ne ha speso da inizio anno 4.500 ed è stato in sei posti, tra cui Bruxelles, Montreal e quant'altro. Tra l'altro non ha il pass per il centro, deve pagarsi parcheggi, si paga i parcheggi di tasca sua, mette online i soldi pubblici che spende. Ma lei è sicuro di stare bene? Sto benissimo, e soprattutto è una scelta di tutta la giunta e del sindaco, che appena si è insediato ha deciso di togliere il pass per l'accesso al centro storico a tutti gli assessori e anche a se stesso, e quindi nessuno di noi ha il pass come, diciamo, diritto in quanto politico. Poi qualcuno di noi vive in centro storico ed è residente, quindi ha... Ma lei abita in centro storico? Io abito nel centro storico, sì, da 3 mesi. E prima come faceva? Prendevo l'autobus. Senta, autoblu, autisti? Noi abbiamo delle panda a metano, il sindaco ha un appunto a metano. Il sindaco di Bologna? Il sindaco, sì. Non gira con l'autista e li guidiamo noi quando dobbiamo andare in giro per la città per degli appuntamenti. Come si fa a spendere 118 euro per andare a Roma, 84 euro, questa è il suo, diciamo, la sua nota spesa, 84 euro per andare a Milano, 800 euro per stare 2 giorni a Bruxelles, 700 euro per stare una settimana a Montreal, mi dica? Si fa come fanno tutti i cittadini normali, che si fanno i conti e prenotano per tempo un aereo, oppure se non hanno i soldi per pagarsi anche il cibo, semplicemente si fanno rimborsare il treno e magari vanno in seconda classe e non in prima classe. Ma lei perché non porta nota spese di alberghi e ristoranti? Ma questa è una scelta che libera, che ho fatto io, perché in realtà è una cosa che potremmo... Nel senso, non ci sarebbe niente di male adesso, a parte non ci sarebbe la demagogia, di male, certo. Ad avere, se lei è fuori per lavoro, come qualunque altro lavoratore di un'azienda privata... È una scelta che ho fatto io perché appena ci siamo insediati abbiamo rilanciato il tema delle relazioni internazionali per dare una proiezione alla nostra città. Essendo io l'assessore più esposto da questo punto di vista, perché sapevo di dover fare molte missioni, mi sono detto: A, ho un budget molto basso e quindi non arrivo alla fine dell'anno con tutte le missioni che devo fare; B, mi attaccheranno sicuramente, allora la prima cosa che devo fare è pubblicare online le mie spese, così nessuno ha niente da dire, e B, siccome devo dimostrare che ci credo ai progetti che voglio fare, magari anche qualche investimento mio in prima persona, perché no? In fondo, prima di fare l'assessore, i pranzi e gli alberghi me li pagavo da solo. Lei non si sente un po' in imbarazzo nello stare in una regione, l'Emilia Romagna, in cui si spendono 3 milioni di euro per i rapporti con gli emiliano-romagnoli in giro per il mondo, in cui moltissimi assessori regionali hanno fatto la giustificazione di presenza al lavoro nel periodo in cui la regione era chiusa, sono fatti rimborsare la trasferta a tutti che abitano verso Porretta Terme, che è il posto più distante, cioè in cui non ci sono magari reati, ma sicuramente abuso di soldi pubblici. Credo che il tema della sovranità riguardi l'Emilia Romagna come tantissime altre regioni. Io francamente non ho mai lavorato in regione, né so bene come funzionano i meccanismi dei rimborsi. So che c'è un'indagine in corso, so che se la politica investe su dei progetti che hanno un riscontro sui cittadini, nessuno ha niente da dire. Io conosco un po' anche il lavoro che fa la Consulta, sicuramente è un lavoro positivo nel momento in cui tiene relazioni con migliaia di cittadini, imprenditori che investono molte anche risorse per il terremoto, in beneficenza sono arrivate dagli italiani che vivono all'estero, emiliano romagnoli. Non è tutto in quel caso qualcosa da rigettare, ci sono anche progetti interessanti, quindi poi bisogna anche guardarci. Chiaro che in questo momento, nell'ondata di scandali complessivi, tutto viene travolto. Ma lei, voi siete 10 assessori in giunta a Bologna, 5 sì. Sono trentenni come lei e il sindaco ha 58 anni. Ecco, dico, lei vede anche i suoi colleghi comportarsi nello stesso modo? No, perché mi piacerebbe anche portare degli esempi virtuosi, perché stiamo navigando nel fango qui e la soglia inizia a essere un po' alta. Ma noi queste scelte le abbiamo fatte come squadra, per cui io ho il mio blog e pubblico tutte le volte che vado in missione le mie cose, ma ogni 6 mesi tutta la giunta pubblica i propri dati, quindi è una cosa che facciamo come squadra. Siamo 5 uomini e 5 donne, 4 sono under 35 e la squadra del sindaco si regge soprattutto nei ruoli più importanti con persone giovani e credo anche competenti. Beh, sì, speriamo scelto. Più competenti che giovani, diciamo questo. No, assolutamente, questo lo auspico, anche se non è una cosa che dobbiamo dire noi. Senta, ma lei quando la fermano i cittadini bolognesi, insomma, non si trova un po' a disagio nel sentire poi anche l'Emilia Romagna, ma poi anche tantissime altre regioni, come le regioni siano diventate delle piccole Roma, per usare l'esempio della Lega, in maniera ancora meno accettabile, perché gli sprechi sono ancora più, come dire, assurdi, personalistici? Ma guardi, io quando parlo con i cittadini che incontro quotidianamente, devo dire, sento molto molto orgoglio da un lato nell'essere una regione che ad esempio sul terremoto si è comportata in maniera diversa rispetto ad altre situazioni. C'è molta preoccupazione e richiesta di trasparenza. Credo che la Regione Emilia-Romagna ha sempre dimostrato di averla questa trasparenza, in questo caso bisogna dimostrarlo ancora e confermarlo. Però devo dire che sicuramente l'antidoto migliore è cercare di stare sulle cose che interessano i cittadini. Noi qui ci stiamo e devo dire è il palo che ci fa reggere nella tempesta. Sì, ecco, ho capito. Lei tra l'altro del PD, ce lo chiedono gli ascoltatori, come la giunta bolognese, ma insomma, ma un po' di rabbia non le viene mai nel vedere cosa hanno fatto i suoi colleghi o in comune o in regione nel resto d'Italia? Cioè, lo sputtanamento arriverà anche a voi, no? Alla grande. Guardi, noi veniamo da 11 anni in cui abbiamo cambiato 4 sindaci a Bologna, per questo le dico anche la nostra esperienza, un'esperienza che è partita prima degli scandali di adesso, ma che ha un segnale importante, perché noi abbiamo avuto un sindaco che è Sergio Cofferati che non si è voluto ricandidare, un sindaco che è venuto dopo di lui che si è dimesso dopo 7 mesi per uno scandalo e un commissario del governo. Quindi quando il sindaco attuale Virginio Merola si è candidato sapeva benissimo che veniva da 11 anni di insoddisfazione forte dei cittadini verso la politica e quindi ha voluto subito dare dei segnali, quindi noi questa roba l'abbiamo vissuta nel nostro piccolo, sulla nostra pelle. Ma io dico, se tutti facessero così, visto che il Sole 24 Ore ha stimato in 4 miliardi i risparmi all'anno se tutte le regioni spendessero lo stesso, se tutti avessero su Facebook i costi delle trasferte, uno può anche spendere magari dei soldi importanti perché la trasferta è complicata, insomma, così, no, un po' di fiducia si ricreerebbe. Grazie, forza, non al suo partito, ma forza a lei, perché mi sembra l'anti-Franco Fiorito. Matteo Lepore, assessore al Comune di Bologna, bravo, continui così a prendere l'autobus, a mettere le spese su internet, a spendere il meno possibile per le trasferte come fanno tutti i normali cittadini comprando i biglietti prima su internet. Noi, vedo che il tecnico mi dà ragione, invece vi auguriamo buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.